GR24, il sole 24 ore. L'Unione Europea prepara un piano di emergenza in caso di uscita della Grecia dall'euro. Tra poco inizia a Washington il G8. È la giornata di Facebook in borsa, titoli scambiati dalle 17 ora italiana. Bossi, distrutto dall'inchiesta sulla Lega, pensa al ritiro dalla politica. Ci si prepara ai ballottaggi, occhi puntati sulla sfida di Parma. La crisi della Grecia e i rischi di contagio dell'eurozona e dell'economia mondiale saranno i temi principali del G8 che si apre tra poco a Camp David a nord di Washington. Sentiremo tra poco l'inviato del Sole 24 Ore appunto da Camp David. Intanto la Banca Centrale Europea e la Commissione stanno lavorando su uno scenario d'emergenza nel caso la Grecia non ce la dovesse fare e quindi esca dall'euro. Lo dice il commissario europeo al commercio Karel de Gucht nel corso di un'intervista concessa al quotidiano fiammingo The Standard. Ed ecco che cosa succede sui mercati finanziari. Buongiorno a Valeria De Rosa. Buongiorno a te Enrico e di nuovo a tutti i nostri ascoltatori. Davvero una mattinata volatile per quanto riguarda i listini del vecchio continente. In questo momento Parigi è in progresso di uno 0,12%, Francoforte cede uno 0,8%, resta più pesante Londra con una flessione dello 0,75%. A Milano in questo momento il FTSE MIB è in progresso dello 0,9%. Va bene anche la borsa di Madrid in questo momento che guadagna circa uno 0,6% e sono i listini che vanno meglio in Europa. Ma questa mattina i mercati hanno cambiato più volte segno e direzione. Quindi Milano è passata dal negativo al positivo più volte. Andiamo a vedere velocemente che cosa sta succedendo sul listino principale. Il titolo migliore è Finmeccanica che guadagna il 4,49%, amplia i guadagni Unicredit che in questo momento è in progresso del 4,46%. In generale il comparto bancario si sta difendendo bene, ecco perché Milano è in progresso di quasi un punto. In fondo al listino invece il titolo peggiore e Tod's che cede il 2,88%, giù anche Pirelli che cede il 2,85%, Fiat Industrial il 2,83%. Resta leggermente sotto pressione l'euro sul dollaro 1,26,94, in questo momento il cambio dell'euro sul dollaro, mentre per quel che riguarda i titoli di Stato in questo momento il differenziale BTP Bund è a 432 punti base, quindi in lieve flessione. Questo per quel che riguarda l'Europa, oggi appunto giornata contraddistinta dalla estrema volatilità, ma oggi è una giornata molto importante per quel che riguarda in generale i mercati e in particolare i mercati americani. Oggi si quota Facebook, una quotazione lungamente attesa, è la prima IPO tecnologica della storia, la terza a livello generale negli Stati Uniti dopo General Motors e Visa. Facebook ha fissato a $38 il prezzo delle sue azioni nella IPO. Sentiamo. E ai blocchi di partenza, il debutto in borsa del social network Facebook. Ma le azioni non potranno essere scambiate all'apertura di Wall Street, cioè all'appuntamento quotidiano delle 9.30 negli Stati Uniti e le 15.30 in Italia. Tutto avrà inizio invece alle 11 in America, ore 17 da noi, perché le contrattazioni del simbolo FB avverranno sul Nasdaq, che è solito aprire l'initial public offering dei nuovi titoli un po' più tardi, secondo alcuni per questioni di stile, secondo altri per scelta del nuovo arrivato. E l'asticella del debutto è alta. Il fondatore numero uno Mark Zuckerberg, 28 anni appena compiuti, ha scelto un prezzo record per le sue azioni, $38 ciascuna, e ora la società vale ben 104 miliardi di dollari, oltre 25 volte i suoi ricavi. Ma è soltanto l'inizio. Per mantenere le promesse, il social network dovrà moltiplicarli con sistemi che monetizzano i suoi 900 milioni di amici. Come l'ultima novità, un servizio a pagamento per chi vuole assicurarsi che i propri amici vedano quello che scrive. Test in Nuova Zelanda al prezzo di $1,53. Anna Marino, Radio 24, il Sole 24 Ore. Adesso, come vi abbiamo annunciato, ci spostiamo a Camp David vicino a Washington, in diretta l'inviato del Sole 24 Ore Gerardo Pelosi. Buongiorno Gerardo. Buongiorno a voi, in realtà non a Camp David ma ancora a Washington, dove è giunto nella notte il Presidente del Consiglio Mario Monti. Sarà una giornata quasi tutta dedicata ai temi della preparazione del G8 per il Presidente Monti, che si tra atterrà a Washington fino circa alle 15 ora locale. Alle 11 lui darà un'intervista alla CNN, a Farhad Zakaria, che ha una rubrica per la domenica sui temi della crisi dell'Eurozona in Europa, ma probabilmente saranno anche i temi del G8 che terranno banco in questa preparazione in queste ore. Monti poi si trasferirà nel primo pomeriggio a Camp David, dove parteciperà alla cerimonia di benvenuto. Il presidente Barack Obama riceverà tutti gli ospiti, riceverà anche questa mattina in una bilaterale il nuovo presidente francese Hollande, e poi alle 20 ci sarà Monti parteciperà al pranzo di lavoro per i capi di Stato e di Governo. Il sabato mattina toccherà proprio al presidente Monti aprire la prima sessione di lavoro sui temi economici. Questo era stato un appuntamento concordato tra Obama e Monti in una telefonata lunedì scorso, e poi ieri c'è stata anche la videoconferenza con i premier europei del G8 per mettere a punto la preparazione di questo appuntamento. E da Washington è tutto. Bene, grazie Gerardo Perosi. Naturalmente speriamo bene per questo G8, vista la situazione piuttosto complessa in tutto il mondo, non solo in Europa. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Roma. Questa mattina c'è stata l'ennesima rapina con sparatoria davanti ad un ufficio postale. Si sono travestiti da spazzini dell'AMA per assaltare il portavalori delle Poste in via Giuseppe Marcotti a Pietralata. Erano in due quando il furgone si è avvicinato, hanno abbandonato le scope e sparato contro il mezzo. Una delle guardie giurate ha risposto, ferendo alla gamba uno dei due rapinatori, che poi è stato arrestato dalla polizia e trasportato all'ospedale Pertini. L'altro è riuscito a scappare a bordo di uno scooter, ma è stato catturato nei pressi della stazione Tiburtina. L'episodio è solo l'ultimo di una serie di violenze nella capitale negli ultimi mesi. Il più grave e forse inquietante a fine aprile, quando nel quartiere Spinaceto due gioiellieri hanno risposto a un tentativo di rapina uccidendo uno dei malviventi, Angelo Angelotti, che è risultato poi essere un nome di spicco della banda della Magliana. Ma l'elenco è lungo. A metà aprile tre ventenni sono stati arrestati dopo sette rapine in una sola notte. A inizio febbraio sono stati messi a segno diversi colpi a due gioiellerie del centro, altrettante in periferia, e due supermercati di Casal de' Pazzi e Torre Spaccata, due i feriti. E ancora violenza il 4 gennaio, quando a Tor Pignattara i rapinatori spararono su un 32enne e la sua bimba di 9 mesi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha confiscato beni per un valore di 330 milioni di euro a Gioacchino Campolo, conosciuto anche come il re del videopoker. Si tratta della confisca più consistente mai effettuata nei confronti di un unico soggetto. L'uomo ha 73 anni e nel 2011 era già stato condannato a 18 anni di reclusione per estorsione e concorrenza sleale. Al microfono di Giorgia Mennoni, il colonnello della Guardia di Finanza Cosimo Di Gesù. Cioè, tutta la sua, diciamo così, attività si basava essenzialmente sui videopoker e aveva due modalità. Uno, quello di imporre attraverso metodi mafiosi ai gestori delle sale giochi i suoi apparecchi di videogioco, di intrattenimento. Il secondo era che alterava sostanzialmente il software delle macchinette, che consente il collegamento con i monopoli di Stato, in modo che i monopoli possano conteggiare l'ammontare dei giochi e su quel conteggio calcolare le imposte. Di fatto, staccando questi videogiochi dal collegamento con i monopoli, lui intascava direttamente quasi tutto l'ammontare delle giocate. Ora la politica, parliamo delle indagini che coinvolgono la Lega Nord e anche quelle sul tesoriere della Margherita. Chi lo ha sentito nelle ultime ore parla di lui come di un uomo distrutto che pensa anche al ritiro. Umberto Bossi sembra aver accusato il colpo dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta sui bilanci del Carroccio. Oltre a lui, la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati anche i figli Renzo e Riccardo e il senatore Pier Giorgio Stiffoni. Un colpo per tutto il partito. Per salvare il salvabile, Roberto Maroni annuncia che a decidere i candidati alla segreteria sarà ora la base. A scuotere la politica in queste ore è anche un un'altra inchiesta giudiziaria, quella su Luigi Lusi. La decisione sul suo arresto da parte della Giunta per le autorizzazioni del Senato dovrebbe arrivare entro fine mese. L'ex cassiere della Margherita, oggi senatore del PD, è accusato di aver sottratto alle casse del partito oltre 21 milioni di euro per spese personali. Ascoltato in Giunta mercoledì sera, Lusi ha detto che quei soldi sarebbero finiti in parte anche ad altri esponenti di primo piano della Margherita, come Rutelli, Bianco e Renzi. La Procura di Roma oggi ha chiesto una copia delle sue dichiarazioni. I diretti interessati invece negano di aver mai preso soldi e annunciano querele. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Tra le persone tirate in ballo da Lusi, come avete sentito, c'è anche Enzo Bianco, senatore del PD ed ex parlamentare della Margherita. Lo ha intervistato Alessandro Milan. Senatore, questi soldi venivano dati per pagare per dei collaboratori? Per svolgere attività politica, cioè per pagare dei manifesti, per affittare una sede, per pagare dei collaboratori. Ed è esattamente la stessa cosa, quello che è stato fatto, è stato detto per quanto riguarda tutti gli altri esponenti della Margherita. Se è stata finanziata un'iniziativa promossa da persone vicine a Dario Franceschini o a Rosi Bindi o a Enrico Letta o a, diciamo, Fioroni o a Gentiloni o a Realacci, insomma, evidentemente si tratta di iniziative di carattere politico. C'è qualcuno qui che vuole passare troppo comodamente dal banco dell'accusato, accusato di cose molto gravi, a quello dell'accusatore. Ma Lusi perché mentirebbe, secondo lei? C'è una ragione, lo dicono i magistrati, non è che lo dico io. I magistrati nell'ordinanza di arresto, di richiesta di autorizzazione all'arresto, dicono chiaramente che è in corso un'attività con la quale si vuole distrarre l'attenzione, sollevare polveroni e inquinare le prove. Mi pare evidente, quando uno, come dire, per coprire le sue malefatte, chiama in causa delle persone per bene, che hanno svolto attività politica, anche con finanziamento pubblico, mi pare assolutamente una cosa del tutto evidente. La mia linea è che, tranne che non ci siano degli evidentissimi elementi di quello che si chiama fumus persecutionis, io ho sempre votato per l'arresto. Seconda parte di GR24, queste le notizie principali, i nostri titoli. L'Unione Europea prepara un piano di emergenza in caso di uscita della Grecia dall'euro, tra poco inizia a Washington il G8. È la giornata di Facebook in borsa, a New York titoli scambiati dalle ore 17 italiane. Bossi, distrutto dall'inchiesta sulla Lega, pensa al ritiro dalla politica. Intanto ci si prepara ai ballottaggi, occhi puntati sulla sfida di Parma. E proprio da qui ripartiamo dai ballottaggi in alcune città italiane. L'elezione dei sindaci di 100 comuni, di cui 16 capoluoghi di provincia. Il turno di ballottaggio riguarderà quasi 3 milioni di elettori. Interessante sarà soprattutto la sfida nei tre capoluoghi di regione, Genova, L'Aquila e Palermo, e nei 5 comuni dove i grillini tentano di portare a casa la vittoria dei propri candidati, i quali potrebbero anche ottenere i voti del PDL in funzione anti-PD. Occhi puntati soprattutto su Parma, dove Vincenzo Bernazzoli, presidente della provincia in carica, appoggiato dal centro-sinistra, dovrà vedersela contro Federico Pizzarotti del Movimento 5 Stelle, che al primo turno ha ottenuto il 19% dei voti contro il suo 40%. Oggi comizio finale con Grillo in Piazza della Pace. Ieri invece, a sostegno di Bernazzoli nella città emiliana, è sceso il comico Gene Gnocchi, da sempre suo amico e simpatizzante di sinistra. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. I due candidati insistono. La partita riguarda principalmente Parma e di Parma ci occuperemo. E sarà un bel da fare. Basti pensare solo ai 600 milioni di euro di debiti lasciati in eredità dalla precedente giunta. Ma che la sfida stia assumendo sempre più il tono del test nazionale lo confermano gli arrivi in città della stampa internazionale. I francesi di Le Monde hanno incontrato per il momento Vincenzo Bernazzoli, 56 anni, presidente della provincia, candidato PD. Gli americani del New York Times si sono per il momento concentrati su Federico Pizzarotti, 39 anni, l'uomo di Beppe Grillo. La CNN intanto ha già prenotato i suoi metri quadrati in piazza per il pomeriggio di lunedì. Al primo turno Bernazzoli ha portato a casa il 39% dei voti, distanziando il grillino di 20 punti. Tuttavia, secondo molti, i giochi non sono fatti. Negli uffici elettorali di Parma c'è la corsa al certificato. Gli astensionisti, almeno una parte, sembrano intenzionati a votare al secondo turno. Al primo, in 50.000 hanno disertato il voto. E poi c'è l'incognita PDL. Il centrodestra insiste, saremo equidistanti, ma c'è chi giura che l'appoggio andrà invece a Pizzarotti. Chi vince? Sarà la politica o l'antipolitica in una sfida in cui i ruoli si stanno mescolando? Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma che cosa è cambiato nelle ultime settimane in questa sorta di mini campagna elettorale? L'opinione di Stefano Folli, commentatore politico del Sole 24 Ore. È cambiata forse la percezione che sono elezioni importanti, rilevanti, che vanno al di là, diciamo, della necessità di rinnovare le amministrazioni locali. C'è la sensazione che il sistema politico si sta avvicinando al punto della verità, nel senso che deve dimostrare di sapersi rinnovare oppure no. Questo voto, sia pure amministrativo, ha dimostrato che c'è un grande fermento nel paese, anche un grande malessere. Ci sono stati voti clamorosi al primo turno e adesso bisogna vedere se nei ballottaggi questi voti saranno confermati, se si dimostrerà che queste tendenze, diciamo, al distacco dalla politica tradizionale aumentano. Il caso di Parma è sicuramente il principale dal punto di vista politico generale. Quanto sarà grande l'ondata del voto di protesta o del voto contro una classe politica deludente? Io spero, penso che lunedì sera, quando si conteranno i voti, i partiti che hanno avuto qualche risultato positivo, nel senso che avranno ottenuto delle amministrazioni, avranno vinto nelle amministrazioni locali, non dicano che tutti i problemi sono alle spalle e che contano soltanto le percentuali. Non contano soltanto le percentuali, conta la capacità di capire il messaggio che viene dall'opinione pubblica e di riformare la politica. Il Capo dello Stato ha posto all'attenzione del Governo e del Parlamento la situazione delle carceri. Giorgio Napolitano ha detto: siamo ad un punto critico insostenibile. Il Presidente del Senato Schifani ha annunciato una nuova sessione straordinaria sul tema degli istituti penitenziari. Una notizia che arriva dal Ministero dello Sviluppo: speriamo, pensiamo e contiamo di fare entro fine giugno un altro CIPE corposo, lo dice il Ministro Corrado Passera in occasione della presentazione del nuovo sito internet del Ministero sull'avanzamento delle opere infrastrutturali. L'obiettivo del Governo è di attivare 100 miliardi di interventi entro la fine della legislatura, un obiettivo che appare realizzabile secondo il Ministro Passera. Intanto il Governo ha nuovamente approvato l'aumento della benzina in caso di calamità naturali. Era stata soprannominata la tassa sulle disgrazie. Un aumento delle accise regionali sulla benzina per pagare gli interventi in caso di calamità. Come dire, lo Stato non ha più un euro per riparare i danni di terremoti e alluvioni e quindi devono pagarli i cittadini. 6 regioni avevano impugnato il provvedimento e la Consulta aveva dato loro ragione. Ora il Governo ci riprova, reintroducendo la norma nel decreto di riassetto della protezione civile. Ma l'aumento della benzina, fino a 5 centesimi, sarà facoltativo, decideranno cioè le regioni se applicarlo o meno. Si potranno anche assicurare gli edifici contro i disastri naturali. Lo stato di calamità, inoltre, non potrà durare più di 100 giorni. Lucio Bondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo del pranzo della regina Elisabetta Windsor, assenza importante quella della regina Sofia di Spagna. Sentiamo i particolari nel servizio. Ci sarebbero importanti assenti e invitati non graditi al pranzo della regina Elisabetta II in corso al castello di Windsor. Teste coronate provenienti da ogni parte del mondo prendono parte all'evento che è il preludio ai festeggiamenti del giubileo di diamante per i 60 anni del regno. La grande assente al pranzo è la regina Sofia di Spagna, che ha annullato la sua visita nella capitale britannica a causa dei disaccordi tra Londra e Madrid su Gibilterra. Non avrebbe infatti apprezzato l'annuncio della visita del principe Edward nell'enclave britannica, sulla quale la Spagna rivendica la sovranità. Fanno discutere invece le presenze del sovrano del Bahrain, paese teatro di violente repressioni, e il re dello Swaziland, ultimo monarca assoluto del continente africano. Giorgia Mennuni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un'ultima notizia: Flavia Pennetta si ritira dagli internazionali d'Italia di tennis per un problema al polso. Tra poco parliamo del Giro d'Italia con il nostro speciale in regia Paolo Corleoni, al microfono Enrico Paglierini. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.